miseria nel silenzio. Muore il mio paese, non c'è luce nel bosco, sulla strada di Damasco, nei cortili bambini piangono, i loro padri seppelliti nel fango, squillano i telefoni nei palazzi del potere, stanno bombardando la mia gente, il mio cuore. Sana bir gün şu dünyadan göçüp gidalar duman, aman aman aman ağlama. Boşa gider de gözyaşlarım, sunam sunam. Bir gün şu dünyadan göçüp giderse dağlar duman, aman aman aman. Si contano ogni giorno i morti nelle strade, il mondo sta a guardare inerme il nostro orrore. Non abbiamo più lacrime per piangere la morte, non abbiamo più dolore, hanno sbarrato le nostre porte, il sangue è il nostro cibo, il nostro pane quotidiano, siamo l'inferno di ogni inferno, abbandonati da ogni destino. Gider de gözyaşlarım, sunam sunam. Bir gün şu dünyadan göçüp giderse dağlar duman, aman aman aman. Siria, nel silenzio, muore il mio paese, non c'è luce nel bosco, sulla strada di Damasco, nei cortili, bambini piangono, i loro padri seppelliti nel fango. Squillano i telefoni nei palazzi del potere, stanno bombardando la mia gente, il mio cuore.